macaroni e spaghetti, pizza bolognese e fettuccini, vitelle ripinci di funghi, insalata di ciatedì di caroli. Spaghetti, pizza bolognese, fettuccini, vitella ripinci di funghi, insalata di cetini di caroli. Ho vendito egyszerű, nagyszerű, kinek fogásos a turista menü, a tutti frutti torta. Maria macaroni e spaghetti, pizza bolognese e fettuccini, vitelle ripicini di funghi, insalata di cetini di caroli. Mama.